Siamo sospesi senza volare mai. In equilibrio senza cadere mai. Ma spero sempre in me che al freddo riesca ancora a sopravvivere. E spero sempre in te che alzi gli occhi e poi sorridi verso me. Nonostante noi, vedrai che questa notte brillerà. Nonostante noi, capirai che questo inverno annegherà. Nonostante noi, sopravviverò per te. Mai. Di ogni respiro riconoscerai che spero sempre in me, che in alto riesca ancora a non cadere più. E spero sempre in te, che alzi gli occhi e poi sorridi verso me. Nonostante noi, vedrai che questa notte brillerà. Nonostante noi, capirai che questo inverno annegherà. Nonostante noi, sopravviverò in questo mondo che ha perduto le regole. Guarda il mio viso, non riesco a sorridere. Questo mare che ha finito le lacrime prima.